Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Lo spettacolo Nati in casa di Giuliana Musso e Massimo Somaglino, regia Massimo Somaglino con Giuliana Musso. Siamo pronti? Possiamo iniziare? Come vi sentite? Caldi? Pronti? Io sono prontissima! Ho già avuto 3 contrazioni e alla 3ª contrazione, cara mia, corri subito in ospedale, me l'ha detto il mio ginecologo privato, ed eccoci qui all'ospedale. Oh, come caldo pulito rassicurante, vero? All'ospedale mi sento già molto meglio. Sì, però non finisce mica quando arrivi lì all'ingresso, vero? Devi cercare il reparto giusto, perché se finisci per sfiga in pneumologia... Cosa ti fanno? Ti sgonfiano in chirurgia nucleare, ti fanno esplodere. Non scherziamo, non è il momento. Maternità, cerco, trovo, eccola qui, maternità, freccetta, suonare il campanello, suono, trin! Tanto qui c'è sempre qualcuno, non vanno mica in ferie, è per quello che siamo venuti all'ospedale, siamo in una botte de ferro. E poi io ho fatto tutto, ho tutte le carte in regola, visite mediche, ecografie, esami del sangue, rosolia, toxoplasmosi, herpes, epatite, AIDS. No, tranquilli, sono sana, come una leonessa. Au, au, au, au, au. Su, però dai coraggio, forza, Adrin. E so tutto anche sui rischi e sui pericoli. La rottura dell'utero, il distacco della placenta, il prolasso del funicolo. È roba brutta, vero? Ma è per quello che siamo venuti all'ospedale, siamo in una botte de ferro. Oh, ah, salve, è un'infermiera. Le dico, 3 contrazioni fatte, sta per nascere. Mi dice che non ho la faccia di una che sta per partorire. Dico la faccia, ma scusi, si concentri un attimino sulla panza. Ah, vedi, l'ho convinta, mi fa entrare. Però prima mi barda da capo a piedi come se fossi un astronauta con una tuta di carta completa. Contro i germi, mi dice. Bravi, bravissimi, hai visto l'ospedale? Abbassi i germi, viva l'igiene! La seguo, mi porta in uno stanzino. Per prima cosa devo fare il monitoraggio con il truclo clacco, truclo focco, come si chiama, scusi? Insomma, una macchina che sente il suo battito e le mie contrazioni. Si tratta di una placca di ferro sulla pancia legata con delle cinghie. Tempo totale dell'esamino di controllo, 2 ore. Mentre sono lì da sola sul lettino che mi faccio 2 palle così, vedo passare uno nel corridoio con i jeans, le scarpe da tennis e il giubbetto di pelle. Ma è contro le regole, lo avviso. Scusi signore, non si può, i germi dappertutto. Shhh, mi fa l'infermiera. Signora, stia zitta, ma è matta, guardi che quello è un medico. Ah, è un medico. Ah, mi scusi. Ah, ma allora il medico non trasporta i germi, è asettico di suo lui in quanto medico. E dopo il monitoraggio, visita ginecologica. E come al solito, gambe all'aria, tutto all'aria, davanti al ginecologo, l'ostetrica, l'infermiera e altra gente sconosciuta che passa di lì perché nella stessa stanzetta ha messo anche il computer con l'archivio. Dopo la visita, carte alla clinica e l'ostetrica comincia a farmi un sacco di domande, nome, cognome, lavoro, indirizzo. Nel frattempo però, quatta, l'infermiera, zac, mi rade dall'ombelico in giù. Dico, scusi, ma cosa fa con i miei peli? Signora, è nell'eventualità di un cesareo. Oh, un cesareo! Oh, ma allora c'è qualcosa che non va? Fa no con la testa. Stia calma, signora, è la prassi. Mi scusi. Allora faccia pure, faccia la prassi. Poi prelievo del sangue? Ma ne ho fatto uno 15 giorni fa. Ero in gran forma, sa. Ah, giusto. Magari nel frattempo mi è venuta una malattia rara di quello che non si sa mai. Ma brava, faccia la prassi. Poi pressione del sangue. Ma brava, faccia la prassi. E poi metta una firmetta qua. Ma certo che gliela metto una firmetta, volentieri. Cosa ho firmato? Scusi, il consenso informato. Di che cosa sono informata? Ah, già, che io sono RH negativo. Lui potrebbe essere RH positivo o viceversa. E quindi devo prendere le immunoglobuline. Ma con le immunoglobuline c'è il rischio di contrarre l'epatite e anche l'AIDS. Belle notizie. No, scusi, sono informata. E quindi? Sono cazzi miei. Oh, scusate, ho detto una parolaccia, non devo. Sto per diventare una mammina. A questo punto, signori e signore, io sono ufficialmente ricoverata. Sala travaglio! Che una si aspetta una sala. Lo dice la parola stessa, con tante donne come me che un po' stanno male, un po' fanno due passi, due chiacchiere, bevono il tè. Invece no, è una stanzetta piccolissima con due letti. Io sono lì da sola e mi riattaccano la placca e le cinghie del tricolo cerocco fuoco cocco, insomma, della macchina. Dico, ma scusi, è proprio necessario, così non riesco a muovermi. Sì, signora, è necessario, lo vuole il primario, così evitiamo tutte le denunce. E le denunce? Dopo un po' arriva l'ostetrica, è molto gentile l'ostetrica, mi spiega che è un momentaccio. Io devo avere tanta pazienza perché oggi il reparto è pieno di donne come me che devono partorire. Dico, lo so perché. Lo so perché arrivano tutte insieme, per via della luna, no? I cicli lunari, le maree. Ma quale luna, quale marea? Mi fa l'ostetrica. Signora, il ponte! Allora, sabato, domenica è festa, lunedì ponte, martedì festa di nuovo, i medici vanno in ferie, programmano i parti in anticipo, arrivano tutte insieme e si crea l'intasamento. Io comunque le altre non le vedo, però le sento. Se non fossi all'ospedale chiamerei carabinieri. Me ne resto lì buona buona sul mio lettino. Ogni tanto torno all'ostetrica, mi fa bere, mi fa far pipì perché è un ciclo continuo. Guarda il tracciato, va tutto bene, mi saluta. E se ne va? E dove va? Ah, va a casa? Ah no, certo. Ha finito il turno. Ah, mi scusi. E certo, mi scusi, anche lei ha una famiglia, è vero. E allora, guardi, grazie di tutto, veramente. E arrivederci, alla prossima, non si sa mai. Arrivederci. Ehi! E adesso? Oh, arriva un medico. È l'assettico, quello di prima. Si vede che gioca a tennis, è un bel figo, tutto abbronzato. Arriva e mi fa, allora signora come va? Dico, guardi, molto bene sta, le contrazioni si sono proprio fermate. Ai, ai, ai, ai, ai, mi fa lui, ma allora signora, le mettiamo su due goccette? Sì, sì, sì, dico, io si figuri in queste condizioni, ogni aiuto è bene accetto, vero? E pof, l'ostetrica nuova era già pronta, con la flebo in mano, ossitocina sintetica endovena, così riprendono le contrazioni. Oh! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ma queste contrazioni qui fanno un male bestia, gente. Io non urlo come le altre, ma comincio a sudare come una cavalla in corsa. Una contrazione ogni 3 minuti, un centimetro di dilatazione all'ora. E mi mancano 6 centimetri. In più, allo scadere di ogni ora, visita ginecologica. Dico, scusate ragazzi, ma è proprio necessario continuare a ravanare là sotto, magari la parte delicata. Dice, no signore, è necessario per via della dilatazione. Se si blocca dobbiamo fare subito il cesareo. E ridai con sto cesareo. Ah, dimenticavo, alla prima di queste visite ginecologiche mi hanno anche rotto le acque che ci sono rimasta di... male, malissimo. Me l'aspettavo da mesi questo momento biblico, così all'improvviso, swash, le cascate del Niagara. E io che annuncio a tutti quanti, gente, mi ci sono rotte le acque, mi ci sono rotte. E invece l'hanno detto loro a me dopo avermelo fatto. Resto così col male bestia per qualche ora. Torna l'assettico. Allora, signora, come va? Male, dico, molto male! Allora lui mi propone di fare la peridurale. La peridurale, penso, come in America. Sì, dico di sì. Avrei detto di sì a qualsiasi cosa pur di non sentire più tutto quel male. Delle belle botte sul cranio, la musica techno a manetta, un bottiglione di graspa di quella nostra friulana, se possibile. Ferma! Sono ferma da ore, ragazzi, ferma! Un aghetto sottile si infila in un punto preciso della mia colonna vertebrale. Cateterino, cerotterino e vai con la lenta infusione della droga pesante. Speriamo che faccia effetto. Io sono sempre cinghiata, flebata, forata, in più adesso, paf! Si aggiunge la fascia per la pressione. Va misurata ogni 15 minuti per via della peridurale. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Catetere in vescica per via della peridurale. E c'ho sempre il catetere ad altezza lombare, quello della peridurale. Ah. Ah. Ah. Viva la droga! Nel frattempo un'infermiera molto carina fa scivolare a fianco mio letto un carrellino con tutto il necessaire per la rianimazione. Le chiedo scusi, chi è che sta morendo? Dice nessuno signora, è per lei per via della peridurale. È per me. In questo limbo magnifico passano le ore, torna l'assettico. Allora signora, come va? E che ne so io, scusi, che sono fattissima io. Glielo dico io, signora, benissimo, la dilatazione è completa. Adesso è venuto il momento di spingere. Spingere? Gli spiego che non ho nessunissima idea di cosa mi stia parlando. Io non sento nessun bisogno di spingere, sa. Non saprei neanche che cosa spingere. Cosa spingo, il carrello? Cosa spingo? Non si preoccupi, signora. Lei non sente le spinte, ma la macchina sì. E quindi l'ostetrica guarda il tracciato. Quando vede arrivare una contrazione me lo dice. Io spingo quando dice lei. Così a casa, nel buio, ondo coio coio. Dopo vari tentativi l'ostetrica mi fa: signora, le sue spinte non sono efficaci. Io mi scuso molto, chiama l'asettico, torna l'asettico. Allora signora, guardi, sono mortificata, spingo, spingo, ma non succede nulla. Non si preoccupi signora, adesso questo bambino qui lo facciamo nascere noi. Sala parto. La sala parto si presenta come una navicella spaziale. Gente mascherata dappertutto. Io sono sempre cinghiata, flebata, forata, in più adesso, paf, mi mettono le gambe sopra due staffe e me le legano con delle cinghie, glielo dico, non ho mica intenzione di scappare, sono venuta apposta a partorire all'ospedale. Sono in tanti intorno a me, c'è l'assettico, un altro medico, l'infermiera, l'ostetrica, poi gli allievi dei medici, gli allievi delle infermiere, gli allievi delle ostetriche, tutti mi guardano, solo là. Capisco che useranno la ventosa quando la vedo, è uguale, identica allo sturacessi di casa. Applicano lo sturacessi sulla sua testa e sento l'ostetrica che fa 60 secondi. E intanto io non so chi guardare. 60 secondi, guardo il soffitto, le gambe, loro. 60 secondi, vedo le forbici e capisco tutto. Si chiama episiotomia, si tratta di un taglio che se hai culo è di 2 centimetri, se hai sfiga è di 7. No, ma serve, perché così io non mi lacero e lui esce più tranquillo. 7 centimetri esce anche con la bicicletta, questo qua però, vero? 60 secondi! Siamo pronti! Allora, mentre l'asettico tira lo sturacessi, l'altro medico fa la Christeller, che non è un passo di danza sul posto per distrarmi, bensì una tecnica di schiacciamento manuale della pancia con tutto il peso del suo corpo. È una manovra molto usata nel wrestling moderno. Anch'io sono coinvolta, devo spingere insieme a loro quando me lo dicono loro, tutti insieme. Uno tira, l'altro schiaccia, io spingo, vai! Un altro spinta, tutti insieme, vai! Ancora come prima, tutti insieme, vai! Abbiamo forato? No! È lo sturacessi che ha sfiatato! Adesso bisogna rifare tutto da capo! 60 secondi! Intanto io mi chiedo come stia lui. 60 secondi! In quel canale così stretto! 60 secondi! Con la Christeller che lo spreme come un limone! 60 secondi! E uno sturacessi sulla testa! 60 secondi! No, non mi uscirà mica fuori uno stronzo, vero? No, perché... 60 secondi! Siamo pronti! Tutto come prima! Uno tira, l'altro schiaccia, io spingo, vai! E intanto senti, dai che viene, no che non viene, fermo, ti dico che viene progredito, schiaccia quella pancia e tu pensa a tirare quella sturacessi e tutti insieme a me, signora spinga, e spingo, sei cazzo se spingo, scusate, sono leonessa, io sai, un'altra spinta, dai vai, un'altra spinta, dai che è fuori la testa, ed è fuori, è vivo, ha ancora la testa attaccata sul collo, è un po' a forma di Williams la pera, ma non importa, è molto incazzato, sembra un hooligan, non importa. porta. Adesso lo vedo su quel tavolino, l'infermiera con un sondino aspira tutti i suoi buchini e mi accorgo che gli hanno già tagliato il cordone ombelicale e non mi hanno detto niente, non ho neanche potuto vedere. Adesso lo mettono su una culla termica a fianco al mio letto. È molto agitato e mentre aspetto tutto il secondamento, lo scovolamento e la sutura, chiudo gli occhi e penso. Cazzo. Ma come facevano le donne a partorire prima di questo bordello? Prima dell'ossitocina, dell'epidurale, dell'episiotomia. Come facevano? Prima ancora, quando non c'erano nemmeno i taxi, le strade asfaltate, i telefoni. Come facevano prima? Nella piana del paese sono spenti tutti i lumi. È così buio in campagna di notte, buio e silenzio, perché ai tempi di prima in campagna di giorno si lavora e di notte si dorme. Ma questa notte c'è qualcuno in giro e avanza verso le ultime case del paese su di una bicicletta grigia, nuova di zecca, una bianchita donna. Ruota da 26, carter chiuso, retina pararaggi, dinamo, freni, a bacchetta. Campanello sulla destra. Sulla sinistra, infilata sul manubrio, una borsa di pelle scura. Pesante. Mai quanto la salita. I polpacci si gonfiano al ritmo alternato, il fiato è uno sbuffo nel freddo che fa e nella testa il ticchettio di un orologio immaginario, una specie di cronometro che ha preso il via quando sono venuti a chiamarla. È un campanello di casa potente e deciso questo qui, il campanello di casa della comare. Drin! Di notte poi è impudico, esagerato. Slitta sopra i centrini del salotto, attraversa l'anticamera, trova aperta la porta della camera da letto e là, sotto gli occhi della Madonna col bambino Gesù, gli occhi della comare sono già aperti. Perché quella donna lì non dorme mai del tutto. Una parte del suo cervello dorme mentre l'altra veglia. Ed è sempre quella, la parte del cervello che non si fa domande, ma semplicemente corre ad aprire la porta. Fuori, nel freddo, nel buio, c'è una ragazza imbacuccata, ma la riconosce, la Rosetta, che dice che si scusa tanto, signora comare, che la pensava di tenere duro fin mattina, ma che la creatura la spinse per venire fora e che l'ha detto di fare in fretta, l'ha detto che non c'è più tempo. Shhh, tasi, che te svegli tutto il paese. Va bene, capio, torna subito a casa. Di mettere sull'acqua e di che arrivo subito. Ma sì che la trovo. La trovo ben la strada. Dai, non sta a perdere tempo. Tempo. È in questo momento che scatta il cronometro che ha nella testa. Tempo, calze, soracalze, cotola, camisa, golfetto, giacchettone, sciarpa, guanti e col bacco. Generico Nord-Est Italia, no Russia, vero? Ma il colbacco era un regalo fatto da Tony Marini con le sue mani, poi a reti non gli aveva niente, allora Piel degli Evre, tic tac, fatto il colbacco. E grazie, signora comare, che se non era per lei, a quest'ora era un vedovo. Col bacco. Borsa, borsetta, bicicletta e via. Verso le ultime case del paese. Tutte. Tutte le ostetriche condotte di un tempo, quando le incontri, per prima cosa ti vogliono raccontare delle loro corse in giro, a tutte le ore e con tutti i mezzi, ma più spesso a piedi o in bicicletta, e poi magari con la bici in spalla, in salita, oppure sulle cotole, con le gambe dentro al fango, fino al ginocchio, e di notte con il lumino ad olio e la paura. Elena, che ha vissuto e lavorato tutta la vita nella bassa padovana. Lei, da sola, di notte, in mezzo a quelle nebbie, non ci voleva andare. Voleva un uomo fidato, di famiglia, che l'accompagnasse. Maria, la friulana. Una femmina di Clapla Marie. Che significa una donna di Sasso per i non friulani, vero? E per i non friulani non è un complimento, però in Friuli sì. Beh, insomma, la Maria fu la prima ad avere la bici al suo paese e poi il primo motore sulla bici, il moschito. Quella non aveva paura di niente, di nessuno, neanche dei tedeschi aveva avuto paura, che passava il posto di blocco con la sua borsa scura sotto il braccio e sopra la fascia con la croce rossa bene in vista. E in qualche maniera si faceva anche capire e si faceva rispettare la Maria. Tempo. Ma dove esista benedetta casa? Che con questo nero pesto tutti gli alberi sono uguali. E anche il fossato, guardalo lì, è una linea nera che è un attimo finirci dentro. Scendere dalla bici a questo punto è più prudente. Perché niente se caschi in terra e ti spacchi tutti e due gli incisivi, come era successo per davvero una volta alla Maria su una lastra di ghiaccio. Ma se spacchi le forcelle della bici? Oh, la bici è un patrimonio. No, no, meglio a piedi, spingendo la bici di corsa. Ecco, mi sono persa. Ma con questo nero pesto come ti orienti? Con le stelle? E? Ben se vai al polo nord, ma dalla Rosetta? Ecco, spiegata la stella cometa. L'ostetrica, no? Poi ne hanno approfittato tutti, re magi, angeli, giornalisti, pastori, ma era per l'ostetrica che il buon Dio l'aveva mandata. Altro che stella cometa, stella comare! Anche se sono tanti anni che fai questo mestiere, questo è il momento in cui ti vengono i pensieri più strani, più stupidi. Soprattutto se è la prima volta che entri in una casa e non lo sai che cosa ti puoi trovare davanti. La casa. Grazie, signore. E allora poggia la bici, occhio che casca, poggiala ben, prendi la borsa, apri il cancello, corri il cortile, senti la bici che casca, bussa sul legno, apri la porta, son qua! Davvero, quando apri quella porta non lo sai che cosa ti puoi trovare davanti. Freddo, per esempio. Ma così tanto freddo che ghiaccia anche l'urina nel pitale. Buio, quella volta. Avevi solo una candelina e allora accendi e spegni per non consumarla tutta prima del parto. Miseria. Quanta miseria c'era a quei tempi, lo sappiamo tutti. Ma quella volta il bambino appena nato davvero non sapevi dove metterlo e la culla gliela facevi tu con due stracci in un cassetto. Il marito ubriaco con la donna già rotte le acque che fa la polenta. Ma c'è fastu e di gustà se no il micope? La vecchia mammana del paese, la praticona, no? Quella che sa tutto lei, fa tutto lei, che la comare così carina col suo camice bianco poteva anche starsene a casa sua e intanto però ti mette le mani sporche nell'acqua che tu hai appena sterilizzato. I tedeschi che hanno requisito la casa, Befelt ist Befelt, ho capito che un ordine, bravi! E questa qui cosa deve fare? Ordinare al bambino di non nascere finché non è finita la guerra? La mamma là sul granar. Col bambino già nato in braccio e non capisci se ride, se piange, che mi scusi tanto, signora comare. Ho provato ad aspettarla. Ma questo qui è un toro. È un toro. Sono qua? Questa volta dietro la porta c'è una cucina normale. Un tavolo, quattro sedie, la cucina economica con dell'acqua sul fuoco, la rosetta. Rosetta! Chiude la porta, fa qualche passo nella stanza, appoggia la borsa, da un'altra pentola sul fuoco viene un profumo che consola. Brodo di gallina. Brava. Prende le scale che portano al piano di sopra. Nella destra il corrimano, nella sinistra il colbacco. Ma no, no, no, no, no, no. Ridiscende svelta. Ma come ho potuto dimenticare giù la borsa? Riprende la borsa e rifà le scale. Rosetta, siamo qua, comare. Rumore di zoccoli. Sul pavimento di legno, laggiù. Individuata la porta della camera da letto. Ma è chiusa. Altra porta. Chiusa, altra sorpresa. Seguitemi. Elena, Cervarese, Santa Croce, provincia di Padova, 1944. Una famiglia di sciori sfolati in campagna. Elena apre la porta. Una grande sala, con un grande letto. Sul letto una grande donna, con una grossissima pancia. Ma la donna si agita, urla, fa la matta, fa l'isterica, graffia il marito, lo tiene per la camicia, il marito bestemmia, la camicia si strappa, e lui via, a gambe levate, facendo il pelo alla comare sulla porta. Che cinematografo! Per prima cosa Elena deve sentire con le mani sulla pancia della signora la posizione del bambino. E sono due, sì? Sono due gemelli? E questa qui, pensando di averne uno solo, ha fatto tutto quel cinematografo. E come glielo dici che poi magari si agita e il parto si compie? Non glielo dici. Nasce il primo bambino, Elena lo stacca e lo dà alla donna, che però sente il dolore per l'espulsione del secondo e urla: ah, comare, che male, che male, che male, comare, che male, che male. Ah, non sentivo così tanto male le altre volte per la placenta. Eh sì, signora, perché questa placenta qua è più grossa. Coraggio, spinga, spinga. E così nasce anche il secondo bambino, che come tutti i bambini fa muè, muè, muè. E la donna: comare, dica a quella placenta di stare zitta, per piacere. La camera si presenta come un dipinto. La luce soffusa, la temperatura ottima. La donna sul letto è giovane e ha il primo figlio, si chiama Rosina. Da non confondere, vi prego, con Rosetta, la sorella. Una volta andava così. No, famiglie numerose, poca fantasia. Primo, secondo, terzo, Rosa, Rosina, Rosetta, Settimio, Ottavio, ultimo. Rosina è stesa su un fianco, agli occhi socchiusi, sembra come in uno stato di sogno o molto concentrata. È lo stesso. Alla comare basta uno sguardo per capire che quella donna è ancora ai prodromi del travaglio, che c'è tempo, se c'è tempo. È in questo momento che si ferma il cronometro che ha nella testa. Ve lo ricordate? Adesso non le serve più. Nella stessa stanza però c'è anche la Rosetta, la ragazzina, che non sta nella pelle, ha 14 anni, è l'ultima di una famiglia tutta di femmine, ma non ha mai potuto vedere le altre partorire perché era troppo piccola, no? Però adesso lei ci deve stare, perché deve aiutare lei, perché la nonna non ce la fa più, la nonna ha male alle gambe, non ce la fa, la nonna può solo dir la sua se serve. E vi assicuro purtroppo che lo fa sempre. Che io sai, ho avuto 8 figli, anzi 9 col primo piccinin, ma è morto subito quello di asfissia. E quella volta c'era la neve alta 1 metro, non veniva neanche la comare, che non avevamo mica tutte queste comodità che avete voi altre donne moderne. Su, su, su, coraggio, su, che dopo l'ottavo fiol, a se fa più fatica a far la polenta che a partorire. Vieni qua, Rosetta. Prendi il mio giacchettone, il colbacco e guarda che giù l'acqua già bolle. Portami su tutte le lenzuola pulite di bucato che hai. Dai, rapida. Anche la comare adesso si prepara. Anche lei, Per prima cosa dovrà sentire la posizione del bambino con le mani sopra la pancia della donna. Si chiamano manovre di Leopoldo. Non le fa più nessuno. Poi il battito del piccolo con lo stetoscopio di legno che ha nella borsa. Ma dove c'è la mia borsa? Ma sì che l'avevo portata su. Rosetta! Sì. L'ha presa la Rosetta la borsa. È ovvio. Non ha resistito. L'ha portata giù in cucina. L'ha messa sopra al tavolo. Non osa toccarla e la fissa. Chissà che cosa c'è lì dentro. Saranno strumenti, medicine, cose molto particolari. Ma esattamente quali? Io lo so, posso dirlo? Lo so tutto a memoria. Rapida, rapida. Allora. La borsa della comare deve contenere... Levatrice, eh? Levatrice, no comare? Beh, è lo stesso, no? No che non è lo stesso, cara. Cosa ci sarà scritto sul tuo diploma? Comare? No, levatrice professionale. Na, na, na, na, na, na, na, na. Maria ha avuto un'altra mentina? Dieses kei dementine. Un sacchettino. Comprate dalla Gilda in Prato della Valle. Padova, Regia Università 1917. Le tre ragazze qua presenti si stanno tenendo su la lezione per l'esame di abilitazione del giorno dopo. Allora avete finito di ciucciare mentine, possiamo andare avanti? Eccola qua. La borsa della levatrice, per carità divina, deve contenere un termometro clinico. Lo stetoscopio di legno. Grembiale bianco di bucato. Un paio di forbici smusse. Per la recisione del funicolo. Due paia di pinze emostatiche. Per il clampaggio del funicolo. Una bottiglietta a vetro scuro con buona chiusura contenente acido acetico. Un'altra bottiglietta contagocce contenente nitrato d'argento all'1%. Siringa di vetro. Sterilizzata nella sua bellissima scatoletta di latta. Due pacchi di cotone idrofilo sterilizzato. Ed infine, due belle bottiglie di alcol denaturato puro. Non lo sapevano, non se lo immaginavano nemmeno quelle tre ragazze che un giorno quell'alcol e quel cotone sarebbe servito loro per accendere un piccolo fuoco, perché altro non c'era che potesse dare calore in quelle case così fredde. Allora alcol, cotone, fiammifero, accendi un fuoco per scaldare almeno le mani, perché le mani sono importanti. È lì sopra che atterrano tutti i bambini quando vengono al mondo. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, noi, professor Ferdinando Lori, cavaliere dell'Ordine Mauriziano, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, rettore della Regia Università di Padova, visto il processo verbale dell'esame sostenuto nel dì 22 maggio 1917 dalla signorina Maurizio Elena, figlia di Angelo, nata a Cervarese Santa Croce, provincia di Padova, l'abbiamo abilitata all'esercizio della professione di levatrice. A mattina fatta, la Rosetta ha smesso di far cantare i suoi zoccoletti su e giù per le scale, su e giù per le scale, su e giù per le scale. Adesso vede bianco, bianco assoluto dappertutto, sul comodino e sul comò, sulla sedia e anche sulla poltrona della nonna, che par che dorma. Hanno lavorato calme e veloci, la comare e la ragazzina. Ah, questa ragazzina qua da grande potrebbe anche farla levatrice, perché è lesta, curiosa, se saprà anche essere paziente. Hanno messo un tavolaccio di legno sotto al materasso, sopra una tela cerata, come quella che va nei letti dei bambini, no? Poi un altro lenzuolo, di quelli grossi, ripiegato, di traverso, ben teso, e poi ancora lenzuola a coprire tutto, anche la testiera e le sponde del letto. Tutti i cuscini della casa adesso sono lì a disposizione, su quella parte del letto che è del marito. E il marito? Non c'è. Niente di grave, eh? È che ha mollato i campi al fratello, ha scelto la paga sicura del cantiere e adesso è su in montagna a lavorare, ma torna a casa abbastanza spesso e soprattutto non riparte mai senza prima avere baciato quella fronte, quella bocca e quel pancione. Una benedizione di labbra a sostituzione di parole che lui non ha mai saputo dire alla sua Rosina. Non che lei ne abbia mai sentito la mancanza, delle parole. Vabbè, comunque, il marito non c'è e alla comare va benissimo così. Perché diciamola tutta, gli uomini durante il parto, cosa gli fai fare? Servono solo se per disgrazia bisogna andare a chiamare il medico o per scappare giù all'ospedale, altrimenti dai, che poi se vedono si spoetizzano, E se sono al primo figlio, anche se sono gentili, fanno solo trambusto, vanno avanti e indietro, fumano, chiedono quanto manca, perché credono che il parto sia una cosa così rapida, indolore, tic e tac, fatto il fiol. Anche se la comare gliel'ha detto e ripetuto, guardi che ci vuole pazienza, si può andare avanti delle ore, a volte giornate intere. Ma questi qua, durri, avanti e indietro. Gli uomini, si sa. Non si sa. No, cosa si sa? Gli uomini, secondo me, sono delle splendide creature misteriose. È vero o no? È difficile generalizzare. E ce n'è per tutti i gusti. Tante teste, tante razze. Elena, per esempio, se ne ricorda uno che era così contento, ma così contento, che stava per nascergli un figlio proprio lì in casa sua, che mentre sentiva le urla della moglie che stava partorendo, poverina, al di là della porta la baciava. La porta, tutta quanta! E poi anche in casa volevo baciare ed abbracciare tutti quanti, anche la comare, che per carità che stava fermo, che sono tutta caldata, dai, va via, via. Poscia, via! Gli uomini. Tante teste, tante razze. Anche teste matte. Come quei due compari che un giorno sono andati a chiamare la Palmira. La Palmira, la mia preferita. La vera ostetrica di montagna, una uscita dalle valli solo per prendere il diploma. 80 chili ben distribuiti di potenza alpina, con la meta nella testa, la borsa nella gerla e le ridotte nei polpacci. E quel giorno i due compari, quando sono andati a chiamarla, erano già ubriachi fradici tutti e due, e invece di correre subito verso la casa dove stava la donna ad aspettarli, che erano almeno due ore a piedi, si fermavano ad ogni pisada de can a far rifornimento. De vin bianco, vin rosso, marsala, sniapa, quel che capita, pur che sia offerto, con la Palmira fuori dall'osteria, la borsa in mano, che gli gridava: avanti, muovetevi, che la donna aspettano gli altri! E così non sono arrivati in tempo. E questa storia non finisce bene, per niente. E non ve la racconto. Dicevamo degli uomini, con l'ossessione del figlio maschio, a quei tempi. A quei tempi. Sì, a quei tempi. E le donne con l'ossessione dell'ossessione dei mariti. Comare, ma la panza un po' a punta, vuol dire maschio. Ah, meno male, così sarà contento mio marito. E invece era femmina anche quella volta. E allora giù bestemmie e musi lunghi anche contro la levatrice. Che però in quel caso era la Gilda. La Gilda la chiamavano il peperino ai tempi della scuola. Scusi, cosa vuole lei da me? Ma sei nata così bella, così sana. Guardi che io sono l'ostetrica, sa, mica il padre eterno. E poi, se proprio proprio voleva un pisa alto, a tutti i costi. Ma poteva attaccarcelo lei, il pezzettino in più, quella volta? La Gilda. Ah, era capace di cacciarli tutti fuori di casa durante il parto. E questi buzzurri la aspettavano giù, in cortile. La intercettavano quando usciva dalla casa, alla fine di tutto. E lo maschio, sì o no? Sa che non ho mica visto bene. Ma le vere baruffe con gli uomini bisognava farle per chiamare il medico, perché una volta il medico bisognava pagarlo e in campagna soldi non ce n'erano mai. Ah, siamo alle solite. Il veterinario per la vacca, subito. Il medico per la moglie, mai. Cara, la prossima volta vedi di nascere vacca, che ti conviene. E anche con i medici non vi dico quante storie ci sarebbero da raccontare, perché il rapporto tra il medico condotto e l'ostetrica condotta è sempre stato un rapporto di grande collaborazione. E anche lì, scusate, sotto al camice, il medico, che cos'è? E quindi? Una splendida creatura misteriosa anche lui, no? E anche lì ce n'è per tutti i gusti, tante teste, tante razze. Ci sono quelli bravi, bravissimi, e quelli un pochino incompetenti, quelli delicati, gentili, e quelli brutti, bastardi! In casa, nel frattempo, Rosina si è addormentata. Capita. Adesso dorme anche la sua grossa pancia, le contrazioni si sono fermate. Capita. Dorme anche la nonna sulla poltrona. Capita. E anche la Rosetta, giù in cucina, con la testa raccolta tra le braccia sopra il tavolo e sotto i piedi rilassati dentro agli zoccoli, fermi. E la comare? riposa anche lei, a modo suo, sulla sedia vicino alla finestra. Lei sa che questa è la quiete che precede la tempesta. L'inesperienza di Rosina l'aveva spinta a chiamare la comare ai primi sintomi di travaglio, ma ce ne vuole ancora. Il bello deve ancora arrivare. D'altronde, saper riconoscere la potenza della vera contrazione del parto è una delle cose più difficili, soprattutto per una al primo figlio. E poi è un luogo comune, no? Tutti ci immaginiamo il parto come un evento precipitoso, sorprendente, che travolge tutto e tutti. Ma non è così. Nella maggioranza dei casi, almeno, non è così. La natura non è così vigliacca. Ti avvisa con delle contrazioni relativamente sopportabili, la cui frequenza varia da donna a donna. A volte possono essere anche molto sporadiche, vanno, vengono, vanno. Così hai il tempo per prepararti, per raccogliere le forze. Ed ecco le quali le nostre donne in questo momento in casa, tutte insieme, raccolgono le forze. Lasciamole tranquille, vi prego, ancora qualche istante e cambiamo discorso. Avete presente l'impressione che fa l'esplosione improvvisa del canto del gallo all'alba sotto la finestra? Ok, che è un periodo di influenza aviaria e che magari no, non stanno bene, però avrete presente, no? Grazie. Il silenzio che segue al canto del gallo, com'è? Non è più lo stesso silenzio, è vero? È una pausa e lo sai. Canta di nuovo. È come il tempo che segue il primo rintocco del campanile, quello che batte le 6 e precede quello successivo dopo 5 minuti. Quel tempo lì, sai sempre quello che ti porta. Dove voglio arrivare? È così. È un classico. È così che si svegliano le nostre donne, tutte insieme con il canto del gallo sotto alla finestra, ma soprattutto è così che riconosci la potenza della vera contrazione del parto. Il silenzio che segue a quella contrazione lì non è più un silenzio, è una pausa. Serve per prendere fiato e poi ecco un'altra contrazione e questa volta le chiamano doglie perché fanno un male bestia. Ah, Rosina, Rosina, Rosina, Rosina, Rosina, non è più così tranquilla, adesso ve lo dico io. Ha tutto il viso contratto, le mani sotto la pancia e geme. Ah, Rosina, Rosina, Rosina. È la nonna questa, si è svegliata? È pronta all'azione, si ripunta i capelli, estrae il rosario e se ne esce a far la pipì perché sennò sciopo. Restano da sole nella stanza la comare e Rosina, ma nessuno meglio di queste due donne sa che lì dentro sono in 3 e che il terzo, maschio o femmina che sia, adesso ha deciso di venire al mondo. Vado ben, comare? Benissimo, cara, benissimo, ma hai paura che ci sono qua io, sai? Ma devi avere tanta pazienza ancora, perché non si sono ancora rotte le acque. Allora dopo ogni contrazione che senti, cerca di respirare profondamente e di riposare, che bisogna solo saper aspettare. Io esco un attimo, sai, ti lascio da sola qualche minuto, vado a vedere di tua nonna, perché non mi sembrava tanto per la quale. E anche lei esce. Da grande, questo qui magari farà il bersagliere. O l'autista. O l'infermiera. O la maestra. Meglio la maestra. E sposerà un signor bello e buono. Rosina, Rosina, tu sei l'albero e lui è il frutto. Ma chissà com'è questo frutto. Che occhi, che voce, che mani, che carattere che avrà. Giovanni, sei frutto maschio. Francesca, sei frutto femmina. Semplice. Che scende. Respirare, Rosina. Riposare. Sapere. La mattina fatta, la Rosetta è sulla via di casa, in bicicletta. L'aveva mandata in paese poco prima la comare a prendere dell'olio d'oliva e del grano perché in casa erano finiti. Serve a massaggiare la Rosina là sotto. Aveva detto a quella del negozio. Ma no, il grano, ma sei scema, ma come fai a massaggiare col grano? L'olio, no, il grano, quello si scalda, si mette in una pezza di lana e serve per fare gli impacchi caldi contro il dolore sulla schiena. E poi via di nuovo in bicicletta. Questo era il giorno più bello della sua vita. Le piace, le piace, le piace questa cosa di fare nascere i bambini. Oh, porca vacca. O che non stia nascendo proprio adesso che io non ci sono. E vai con più peso sul pedale, il culo alto sopra la sella come la staffetta partigiana. Intanto in casa la comare ha smesso di massaggiare da un bel pezzo. Non si può più, c'è troppa tensione. Adesso parla sottovoce. Hai capito? Ho capito. Si presenta molto bene. Hai visto le acque come erano chiare, pulite, pulite? Significa che il frutto sta bene. Hai capito? Bene, ho capito. Mai paura che ci sono qua io, ma ricordati di spingere solo quando davvero ne senti il bisogno. Hai capito? Da dentro. Hai capito? Ho capito. Ha capito? Saper parlare così, con calma e con chiarezza, faceva parte del mestiere di queste donne. Soprattutto una volta, quando le femmine del paese, tutto quello che non potevano andare a dire al prete, lo andavano a dire alla levatrice. E quante ne sentivano senza un cioè in un mondo senza il diritto all'aborto, al divorzio. La Gilda, per esempio, che poi con la condotta era finita a lavorare in una grande città, a Trieste. Lei si era specializzata in ragazze madri. Tutte da lei passavano, cacciate di casa, disperate, senza una lira, perché si era sparsa la voce che la Gilda le teneva un pochino in casa sua e soprattutto le convinceva a non abbandonare il bambino, sai, che poi torni qua a piangere da me perché te ne pensi. Senti, lo so, sì, lo so, lo so. Tranne una volta, la mula, dopo il parto, non aveva neanche voluto vederlo, il bambino. E sì che era nato così bello, così dolce. Allora la Gilda l'ha preso su lei e l'ha fatto battezzare lei. Amedeo, ha detto al prete. E intanto però pensava ad Amedeo Nazari. E chi non beve con me peste lo colga. Che bello con tutti quei baffi, eh? Poi al piccolo ha fatto anche la carta di nascita e l'ha portato all'ospedaletto, che era l'ospizio per i picci abbandonai, ma tutte le mattine lo andava a trovare tutti i santi giorni per vedere come stava, e tanto ha fatto che è riuscita anche a trovare una famiglia di brava gente, contadini, disposta ad adottarlo, e anche dopo in famiglia sempre lo andava a trovare, tutte le domeniche si è comprata la motoretta apposta, fu la Gilda a regalargli l'orologio per la prima comunione. Eh sì, se lo sarebbe tenuto ben volentieri tutto lei, il suo Amedeo. Ma la Gilda non era sposata. Elena era sposata e forse anche per questo un giorno la Marziola suonò al suo campanello. Marziola, appena data in moglie a Tiberio. Anzi, Tiberio, contadino. Di poche parole e tanto cuore. Fine del discorso. La Marziola quel giorno è convinta di avere una malattia gravissima. Elena la visita, ma trova tutto a posto. Ma da quando hai tutto questo male, cara? E signora comare, da dopo il matrimonio, perché Tiberio le bon sì con gli altri, ma comiglia anche un po' una bestia. E se ne tocca ancora anche solo con un deo, mi scappo di casa, perché son matta, vado in Russia a fare il circo con i russi, vado in Russia. Dai, Marziola, non sta a dir monade. Vai a chiamarmi Tiberio, che ho da parlargli. Prego, Tiberio, caro, comodo, sai? Ti devo parlare come una mamma. Anzi, come un papà. E così Elena, la levatrice del paese, spiega a Tiberio che anche un buon matrimonio, caro, senza quei momenti, come dire, che fai un po' la gioia, che non vai su, che perdi un po' di tempo, fai... Senza i preliminari, va, rotoli, va, caro figliolo! Sono contenta che i preliminari hanno successo qua, guarda. Di solito invece... bravi, bravi. Scusate, anche la Palmira, nella sua semplicità di donna di montagna, sapeva parlare e sapeva ascoltare. C'è una storia che ce lo dimostra. Si tratta di una coppia che non poteva avere bambini. Ma mentre lui, come tanti uomini a quei tempi, fa la stagione in un'altra città, lei lo tradisce. E poi si scopre incinta. Al ritorno di lui la donna corre, disperata, dalla Palmira. Palmira, me vergogno, ho fatto una follia, sono già di 2 mesi. Ah, Maria Vergine. Vergine, sì. E pensare che voi altri due non potevate avere bambini. E quanto che ci avete sofferto e pianto, tutti e due. Vuol dire che questo bambino qua te l'ha mandato il Signore. Sì, eh sì. E sarà un bene e una gioia per tutti e due. Ci penso io. Diremo che è nato prematuro, di 7 mesi. Però tu, se ti vuoi salvare la vita, cara, devi tenere chiusa la bocca. Hai capito? Non ce la fa La notizia esce e si abbatte come un fulmine a ciel sereno su tutto il paese, poi sul marito. Lui la butta subito fuori di casa. Lei sola, disperata, incinta, lui solo e disperato anche lui, perché le voleva bene a questa donna e se la sarebbe tenuta anche con il figlio non suo, ma ormai tutto il paese sapeva. La Palmira non ci dorme la notte per questa storia e un giorno decide di andarlo a trovare per sentire di lui. Il giorno dopo torna in quella casa, ma per parlargli, e il terzo giorno ritorna nella casa insieme alla donna, perché lui aveva deciso di riprendersela, solo che da quel giorno lì più nessuno lo vide in giro in paese. Nacque un maschio, sano. Lo battezzarono in fretta e furia, senza dire niente a nessuno. Una mattina, all'alba, in chiesa era presente solo la Palmira. La sorpresa però fu all'uscita dalla chiesa, là, sul sagrato. C'erano tutti. Si erano passati la voce ed erano lì ad aspettarli. Nessuno si ricorda le parole. Ma tutti si ricordano l'applauso di tutta la piazza per dire a quell'uomo che da quel momento anche per loro il bambino era suo e basta. Scusate, vi ricordate il famoso bisogno di spingere? Sì, vero? È arrivato! Forza Rosina! In questo momento in casa fanno tutto il tifo per lei. La Rosetta veramente come pietrificata, una statua di stupore attaccata alla parete su due piedistalli di legno. La nonna invece è furba, si risveglia facendo finta di niente. Ha capito che siamo arrivati al momento X, al momento topico, quello delle spinte, e riprende con più fervore il rosario. Ma mentre l'Ave Maria passa in automatico, lei quelle spinte lì se le ricorda e come tutte, e tutti i parti, e tutti i figli che ha avuto. Perché come tutti i figli sono diversi, sai, anche i parti non vanno mai lo stesso modo. E quando che te ne paura? Ma che vuol coraggio? E l'aiuto della Madonna! E questo lo pensava anche Elena. Sì, la levatrice padovana, anche lei, per tutta la vita ha tenuto nella sua borsa d'ostetrica tre santini. Santa Margherita, Sant'Anna e la Madonna col bambin Gesù, a divina protezione della puerpera, del bambin e anche della levatrice. Perché gli imprevisti arrivano davvero, allora cosa fai? Se hai paura non puoi scappare e se devi prendere una decisione al volo non hai mica che chiedere consiglio. Il tempo di un'Ave Maria è agire, come quella notte maledetta del Venerdì Santo. E chi se la dimentica più, eh? Una mamma di sei bambini, nasce il settimo e fin qua tutto bene, ma poi le viene un'emorragia fortissima. Elena manda subito a chiamare il medico, ma quella volta il medico stava distante, troppo distante. Allora le fa tutte e due le fiale di ergotina regolamentari che teneva nella borsa, ma l'emorragia non si ferma. Manda i ragazzi più piccoli a cercare del ghiaccio, perché il ghiaccio serve, ma l'emorragia non si ferma. E lei non sapeva proprio più che cosa fare. E la donna cominciava a perdere i sensi. Ma non poteva perdere così, senza far niente. Una donna, mamma di sette bambini. Allora ha detto l'Ave Maria. Si è infilata il guanto di gomma con una mano. Ha tenuto premuto l'utero, mentre con l'altra ha cominciato a massaggiare, pregando la Madonna perché questo utero riprenda tono. Tanto tempo così, finché le braccia proprio non hanno potuto continuare. E l'emorragia, per ora, si è fermata. Quando arriva il medico è l'alba. Tutto ben? Tutto ben? Con l'aiuto della Madonna. Eccoli qua. gli imprevisti. E quello che hai imparato a scuola non è mai abbastanza. Maria, San Leonardo Valcellina, 1938. Una donna che aveva tanta, tanta paura di partorire, perché il primo figlio per lei era stato come un trauma, non ne voleva più. E quando si scopre incinta per la seconda volta, corre nel panico dalla Maria. Sia chiaro, di aborto neanche parlarne. Non sarebbe andata dalla Maria per quello. La Maria era la levatrice condotta, ufficiale dell'anagrafe, la chiamavano la generalessa in paese, perché aveva una specie di autorevolezza naturale, sapeva parlare, sapeva convincere. Infatti anche in quel caso convinse la donna a non commettere sciocchezze, che questa volta non avrebbe più sentito tutto quel male, questa volta l'avrebbe aiutata lei a partorire. Arriva il giorno del parto. La donna abitava in una bella casa con tutte le comodità. Tutto era pronto e pulito, il bambino si presenta bene, ma nel momento decisivo, quello delle spinte, la donna non ce la fa. Perde il controllo, sta male, ha paura, bestemmia, urla, invoca la morte e le contrazioni si bloccano proprio mentre la testa del bambino sta per passare. È pericoloso e Maria lo sa. Infatti subito sente con lo stetoscopio di legno che il battito del piccolo si fa irregolare. La Maria però non prega, pensa, pensa. E comanda subito di portare su quella mastella vuota che ha visto giù nella corte e di riempirla immediatamente con tutta l'acqua calda già pronta per i lavaggi. Detto fatto, in casa tutti corrono. In pochi minuti il cattino con l'acqua calda è lì pronto nella stanza. La Maria di peso prende su quella donna e ce la mette dentro. Là nell'acqua calda, piano piano piano, i dolori si attenuano. L'acqua calda inibisce la produzione di adrenalina e dopo un po' le spinte riprendono. Due decisive e il bambino nasce nell'acqua nel 1938 e senza una lacerazione. In occasione del battesimo di quel bambino fortunato, la Maria ricevette la lettera di ringraziamento più bella della sua carriera. Imprevisti, soluzioni geniali, e ci sono anche i mezzi miracoli. E uno ve lo devo proprio raccontare, mi dispiace, ma l'ha fatto la mia amica, la Palmira, quando era giovane. Era finita in una frazione così isolata, su per la montagna, dove secondo me il medico non l'avevano neanche mai visto passare. E quel bambino non si decideva a nascere. Di tutto aveva già provato la Palmira, perfino le spinte sulla pancia, come le avevano insegnato a scuola, niente. E la mamma era poco più di una ragazzina piccola e piangeva in continuazione. Ah, Palmira, aiutami, aiutami, fammelo nascere, che è l'ultimo ricordo che abbiamo di lui. Perché questi due giovani disgraziati si dovevano sposare, ma lui è saltato in aria mentre disfava una granata per vendere i pallini. E queste cose succedevano a quei tempi. E sono fatti veri, anche raccontarli. E anche alla Palmira, al suo pensiero, le veniva da piangere, perché era giovane, si immedesimava, pensava che magari poteva esserci lei al posto di quella disgraziata lì. Insomma, dopo ore e ore e ore di male, di pianti, di urla, nasce. È una femmina, ma è già morta. Come glielo dici? Coraggio, Palmira, coraggio. Decide di rianimarla. Respirazione artificiale, all'italiana, all'inglese, in tutte le maniere. Poi acqua calda, acqua fredda, massaggio cardiaco sul piccolo corpicino senza perdere la speranza, finché all'improvviso la piccola caccia l'urlo. Tutte le donne che sono nella stanza si buttano subito in ginocchio a ringraziare la Madonna che ha fatto il miracolo, la Madonna. E nessuno guarda più la Palmira. Tutta sudata, col cuore in gola e le gambe che ancora tremano. Miracolo o no, quella volta la bambina è nata. È cresciuta, è diventata grande, si è sposata e ha invitato la Palmira al suo matrimonio, e la Palmira ci sarebbe andata ben volentieri, ma non aveva i soldi per fare il viaggio. Imprevisti, soluzioni geniali e mezzi miracoli. Però, quando va tutto bene, vi assicuro che sono solo gioie. Lo chiamano il lieto evento e c'è un motivo. No, credetemi, c'è un motivo. E anche la Rosina qui si dimenticherà completamente il male, la fatica, la paura. Adesso la comare l'ha fatta sedere sul bordo del letto. Anzi, ad essere precisi, è lei che ha voluto mettersi proprio così, con i piedi appoggiati a terra, una mano sulla spalla di Rosetta. La comare è lì, vicino a lei, le spiega tutto quello che sta per succedere. Però non le dice respira, eh? No, quella è una cosa che si vede solo nei film. Respira, amore, respira, respira. Cioè, la donna sa benissimo come respirare, l'ha sempre fatto tutta la vita, non è una novità del momento. La questione è questa: quando arriva la contrazione, la donna inspira ed espira profondamente più volte, come fanno i pescatori di perle prima di tuffarsi, no? Poi, con l'aumentare della contrazione, se ne sente veramente il bisogno, allora trattiene tutta l'aria, spinge con tutte le sue forze. Se in quel momento lì le dite respira, si distrae, deve rifare tutto. Vi ho convinti? Però ci siamo, eh? Sta per nascere, non posso perdere tempo. Ve lo devo raccontare. E come faccio? Faccio così. Rosina, adesso, è come in un altro mondo. È il dolore, la travolge. La comare le sorride, ma è tesa anche lei. Si vede la testa con i capelli. La comare le dice di non spingere se sente bruciare, perché il bruciore è sintomo di troppa tensione, si potrebbe lacerare, si può aspettare. Non ce la fa. Vuole proprio spingere, perché le spinte arrivano da sole, da dentro, ed ogni spinta è come uno schianto che le toglie il respiro e la ragione. Allora la comare mette la mano sinistra sul perineo della donna e con la destra attende l'uscita della testa, perché se passa la testa è quasi fatta. Guscia fuori piano piano, poi naturalmente si gira o a destra o a sinistra. Con un'altra spinta si disimpegna una spalla, poi l'altra. La comare è lì, lo può prendere. La donna urla, urla, con una voce che nemmeno lei ha mai sentito. E il bambino scivola fuori come un pesciolino dal buio. È nato. È sulla pancia della sua mamma adesso. E già si calma. Non piange. Gorgoglia. Lei è come... stupita. e con una mano lo tocca. Anche lui sulla pancia sembra quasi che allarghi le braccia, la vuole tutta questa mamma. Poi gira anche la testa piano piano e apre gli occhi e si guardano. Ve lo giuro, si guardano. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Amore. Ma sarà un maschio o una femmina? Sapete che non ho mica visto bene? La pasta è nata. Grazie, grazie. Troppo buoni. Io non vorrei, scusatemi. Mi dispiace smorzare il vostro entusiasmo, il bambino è nato, ma lo spettacolo non è finito, eh. No, ecco, no, no, perché voglio dire, non possiamo mica lasciarla lì così in queste condizioni da sola. Ci sono altre cose importanti da fare, dobbiamo farle insieme. Primo, non fare niente, niente di niente, lasciare che questi due per un pochino se la godano. Amore, amore, amore, amore. Magari sperimentano anche la prima poppata, che fa sempre bene. Secondo, lo dice la parola stessa, il secondamento, cioè l'espulsione della placenta. E qui Rosina potrà avere ancora un po' di male, ma la comare conosce tutte le manovre perché ciò avvenga senza rischi, senza pericoli. Terzo, che può avvenire anche prima del secondo, il fatidico taglio del cordone ombelicale. La questione è questa, quando nasce il bambino o la bambina, il cordone che esce insieme a loro pulsa. Poi a un certo momento, quando decide lui, si ferma. Allora si può tagliare. La comare ha le pinze e la forbice per farlo e vi assicuro che quando può lo fa con una grandissima calma. Poi lava, pesa, asciuga, mette tutto a posto, tutto come era prima e qua se ne vanno le ore. Con le prime luci del giorno nuovo, il secondo giorno che sta in quella casa, la ritroviamo giù nell'orto che scava con la vanga. No, no, non sono stanca. È un riflesso per via dell'ora, no? Ma perché la seppelliamo? Perché la placenta non si può mica buttare via così, come se fosse una cosa qualsiasi, magari nella spazzatura. Eh no? Così un giorno gli diciamo, stai attento, che qua sotto c'è la tua placenta. Ma lei dov'è che ha imparato a fare la comare levatrice? Levatrice? A scuola. Ma dai, c'è anche una scuola? Sì, però se non riusciva a nascere chiamavamo il medico. Certo, ma non è servito. No. Ma quanti sono i bambini che non riescono a nascere? Pochi, pochi. Sì, ma esattamente quanto pochi, pochi? Esattamente quanto pochi, pochi? Il 35,2%. Il 35,2% dei bambini oggi nei nostri ospedali italiani non riesce a nascere. Cioè, non viene al mondo attraverso un parto fisiologico vaginale come quello di Rosina, bensì attraverso il fatidico taglio cesareo. E questo dato così preciso, con il decimale, la percentuale, a noi l'ha fornito proprio Rosetta. Era ovvio, no? Quella ragazzina lì da grande ha fatto davvero l'ostetrica. Da più di 20 anni lavora in un grandissimo ospedale del Nord-Est e ci ha raccontato un sacco di cose, la signora Rosetta. Ci ha detto, per esempio, che fin dal 1985 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità dichiarava che non c'è alcun motivo per cui in nessun luogo al mondo si abbia più del 15% di tagli cesarei. Noi abbiamo un trend in crescita, eh. Sì, Presto arriveremo al 40%. Da quando ho iniziato a fare questo spettacolo ad oggi siamo cresciuti di 2 punti. No, non è l'effetto dello spettacolo. Non c'entra. È che ci piace tagliare la pancia alle donne. Ci piace. E non ci sono altri motivi. E poi ci ha detto, beh, del suo reparto, dove lei lavora nascono 2500 bambini all'anno, che fa una media di 7 bambini al giorno, con 2 ostetriche per turno, 3 turni al giorno, sono 2 anni che non fa le ferie. Ci ha detto che certe procedure mediche, come l'assunzione dell'ossitocina sintetica, o l'episiotomia, o l'epidurale, tante altre, sono utili se sono necessarie, ma se non sono necessarie, possono essere anche molto dannose. E che certo che sì, sì, tutti lo sanno, che la posizione litotomica, cioè quella sdraiata con le gambe sopra alle staffe, è la più sfavorevole per la donna che deve partorire, ma mica perché sta scomoda, perché diminuisce il diametro del canale di parto e crea un sacco di altre complicazioni. Ma è così. È la prassi, è una posizione comoda per il personale. Ma lo sanno tutti. Dice che andrà sempre peggio. La Christeller, ormai la facciamo solo noi, in Italia. In Europa non la fa più nessuno, è pericolosa. Dice che le donne arrivano in reparto e delegano il parto ai medici perché sono terrorizzate. E i medici lo delegano ai farmaci, ai protocolli, agli strumenti che hanno, perché anche loro sono terrorizzati dalle denunce delle donne. Dice che andrà sempre peggio. Le regioni rimborsano alle strutture ospedaliere per un cesareo il doppio di quello che pagano per un fisiologico. Dice che andrà sempre peggio. Ma chi l'avrebbe detto, eh? Chi l'avrebbe detto? Questa ragazzina, che nella nostra storia era così entusiasta, carica, ottimista, da grande, sarebbe diventata una donna disincantata, disillusa, quasi pessimista. È così. Io però l'ho vista, l'ho conosciuta, l'ho vista lavorare. Nel suo reparto, la signora Rosetta è capace di nascondere il tracciato del cardiotocografo, la macchina, là, ai medici, per non farli preoccupare. Per risparmiare magari per un po' alla donna l'assunzione dell'ossitocina sintetica e tutte le cose che ne derivano, no? Si è inventata la formula parto precipitoso nella cartella clinica tutte le volte in cui all'opposto ha avuto il tempo e la calma di fare partorire la donna nell'intimità della sala travaglio, la stanzettina, no? Per risparmiarle la sala parto. Insomma, le piace, no? Le piace ancora questa cosa di fare nascere i bambini come quel giorno con la comare. Già. La comare. È quasi mezzogiorno quando esce da quella casa. Tutto a posto, tutto fatto. Già bevuto il caffè. Borsa, borsetta, bicicletta. E via. Verso casa. Solo che questa volta basta una pedalata, perché la strada che prima era in salita adesso è in discesa. Dopo la curva, paf, si apre la pianura e rivede il paese, il fiume, le colline conosciute. L'aria fresca della mattina d'inverno le gonfia il giaccone, passa attraverso il piel dell'ievre del colbacco e sarà anche colpa dell'aria ghiacciata contro gli occhi. Ma par che pianga. E forse è vero. Piange. perché è il 1969, lei ha più di 70 anni. È venuto il momento di andare in pensione. Basta. E poi i bambini non nascono più in casa. Vanno tutti all'ospedale. Lei avrebbe potuto andare a lavorare all'ospedale quella volta. E adesso è stanca. Com'è stanca? Però guarda che bella giornata. Che sole. Presto torna la primavera. Va che ben. Che va la bici. Lo spettacolo Nati in casa di Giuliana Musso e Massimo Somaglino, regia Massimo Somaglino con Giuliana Musso. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Maria Paola Canepa di Artemia per presentare la rassegna teatrale a tematica LGBTQ+, dal titolo Artemia Plus, dal 4 al 27 novembre 2022. Ben trovata. Ciao, buongiorno, ciao Federico, ben trovato. Partiamo dalla realtà di Artemia, spieghiamo cos'è. L'Artemia è un centro culturale che ormai da 10 anni si passa contro vento e marea per andare avanti e siamo riusciti. Dopo 10 anni siamo ancora qui in piedi, dopo aver superato la pandemia e tutti i disastri che ci sono stati, che tanti altri siamo riusciti a superare con non poche difficoltà. Oggi alla sua 10ª stagione partiamo anche con una rassegna che devo già fare da molto prima della pandemia, perché noi per esempio per 2 anni abbiamo ospitato l'unica milonga queer stabile d'Europa, abbiamo inaugurato il Roma Pride nell'anno 2021 e comunque la tematica LGBT ha sempre trovato posto nella nostra programmazione, quindi a questo punto al 10º anno siamo pronti per dedicare uno spazio esclusivo a questa tematica. E come fare? Utilizzando uno degli strumenti più potenti che conosciamo per raccontare, cioè il teatro. Secondo noi il teatro è fondamentale perché guardando storie, immedesimandosi nelle storie che si vedono, abbassiamo pregiudizi, difendiamo diritti, avviciniamo storie lontane alle proprie, perché la maggior parte di noi, chi più chi meno, forse abbiamo tutti subito in qualche momento della vita, almeno una volta, qualche discriminazione. E quindi quello che vogliamo raccontare è che è proprio nella diversità e nell'accettazione di esso che mi dà la possibilità di crescita personale come culturale e sociale. Ecco perché facciamo questa rassegna. La rassegna, inoltre, abbiamo l'onore di essere patrocinati dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli con il nostro media partner Cirolandia, quindi siamo una bella squadra. Ci siamo 4 meravigliosi spettacoli che veramente, per dire, il primo anno di questa rassegna sono veramente felice. Il primo sarà dal 4 al 6 novembre, il primo weekend di novembre. Andrà in scena lo spettacolo Tuo Hans di Miranda Angeli e Benedetta Nicoletti. In questo spettacolo è importante per noi e sono molto felice di presentarlo perché l'anno scorso è arrivato secondo al nostro Festival Nazionale di Corti Teatrali. Quindi loro hanno sviluppato questo corto e va in scena per la prima volta da noi e in apertura di Castegna, con gli attori Andrea Lami, Massimo Funari e Francesco Polizzi, che si trasportano nella Germania del 1945, quando Hans è sul treno al ritorno del campo di concentramento. La guerra finisce, tutto teoricamente dovrebbe tornare alla normalità. Il fatto è che comunque l'omosessualità, anche a guerra finita, è condannabile e punibile. Quindi è una storia nella storia. Poi il secondo appuntamento, il secondo weekend di novembre, il 23 novembre, e va in scena Anita al buio, di Priscilla Moscato e Stefano Poppa, la regia di Lucia Bellotti. Questi spettacoli sono divertissimi l'uno all'altro, sempre con le stesse tematiche, però volutamente tutti diversi. In questo caso, Manita al buio, la protagonista di questo unipersonale, perché è quello che Priscilla non sta in scena, si racconta l'inquietudine di una giovane donna omosessuale nell'era attuale, dove tutto cambia alla velocità della luce, in cui la precarietà rappresenta la base della nostra vita quotidiana, purtroppo, ahimè. Poi, il terzo weekend di novembre, ancora un spettacolo completamente diverso, perché è musica, canzone, il 18, 19 e 20 novembre, conoscere Emiliano Metalli e Roberto Brega, poi con Maria Malicone, Flavia Moretti, e va in scena uno spettacolo che ci tengo tanto, perché si chiama Quella morte palpito, vita, vite, amori e passioni intorno a Pasolini. È uno sguardo da bordo canto, tanto per raccontare e ricordare un po' chi è Paolo Pasolini nell'anno in cui ricorre l'anniversario della sua nascita. Però lo stile di Emiliano Metalli, che è lui il regista e l'autore, è uno stile che, anche se parliamo di cose importanti, si sa trasportare in questo argomento in modo molto leggero e molto distensivo, quindi cambiamo completamente stile. E parlando di cambiare stile, l'ultimo spettacolo, perché è uno spettacolo, però l'ultimo degli appuntamenti, che sarà l'ultimo weekend di novembre, 25, 26 e 27 novembre, si chiama Il lato oscuro del desiderio. Più che uno spettacolo, è un particolare progetto artistico itinerante. L'autrice Senit è a cura di Roberto Cavallini e Barbara Lalle, con Amiga, Electra, Germogli di Single, Velvet Madonna e Lisa Sedda. La tessera del desiderio è un'opera immersiva, fruibile in maniera fluida, che permette a ogni spettatore di lavorare liberamente il proprio significato. Praticamente il pubblico entrerà, il centro culturale diventerà tutto un palcoscenico, non soltanto la sala Federico Palmieri, che è quella che hanno di sotto, dove c'è il teatro, ma lo spettacolo inizia già da fuori, dalla vetrina di Artegna si vedrà uno di questi 6 quadri animati, nei quali ci saranno argomenti quali relazioni, tecnologia, lavoro e tanto altro. Nei 6 quadri, per esempio, c'è Il buco della serratura, dove si parla di relazioni tossiche, un altro si chiama Schiavitù consensuale, dove ci si interroga sul perché si accede l'esercizio del potere entro le leggi sessuali. Poi c'è In vetrina, che parla della giustificazione dei corpi. Poi dopo c'è un altro che il nome è molto divertente, secondo me, si chiama Dammi l'abito e ti farò il monaco, dove l'illusione di poter condizionare le scelte del performer, quando forse in realtà il pubblico stesso subisce la fascinazione. Poi c'è un'altra stanza che si chiama la chat, dove effettivamente il pubblico chatterà con il performer e vediamo se il pubblico e il performer saranno capaci di guardarsi negli occhi, perché saranno uno davanti all'altro. E poi l'ultima delle stanze si chiama il confessionale, che è la stanza dove il pubblico stesso, se vuole, può liberare i propri lati scuri. Quindi è veramente una performance, un'opera dove si mischia teatro con danza, con musica, con tecnologia, ed è un esperimento molto, molto appassionante, che sono molto felice di poter fare. Tutta la rassegna sarà accompagnata al piano di sopra, nella zona della Sala Livia Biondi, dalla mostra antologica dell'artista plastico Giovanni Palmieri. Ed è una mostra di quadri di tutta la sua carriera, che piace molto abbinare mostre d'arte a rassegne. Giovanni Palmieri, che è direttore anche lui di Chirolandia, nostro media partner, per questa prima edizione non poteva mancare, quindi sono molto felice di ospitarlo come grande artista che è. Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma? www.centroculturaleartemia.org. Vi ripeto, la rassegna sarà dal 4 al 27 di novembre, ogni weekend di novembre, al Centro Culturale Artemia, che si trova in via Militare Cucchini al numero 38. Se volete prenotare, potete telefonare o mandare un WhatsApp o un SMS al 334-159-8407. La rassegna teatrale a tematica LGBTQ+, dal titolo Artemia Plus, a Roma, al Centro Culturale Artemia, dal 4 al 27 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Maria Paola Canepa. A presto! A presto, grazie, a febbraio, dove ci sarai anche tu in rassegna. Un abbraccio! Ciao!

con Sabino Civilleri del collettivo Genia per presentare la terza edizione del Prima Onda Fest a Palermo dal 26 ottobre al 6 novembre 2022. Ben trovato. Grazie Federico, ben trovato anche a te. Partiamo dal collettivo, raccontaci un po'. Il collettivo Genia è nato il 5 marzo 2020, il 7 ci siamo costituiti proprio, il 7 marzo poi venivamo chiusi in casa per la pandemia, quindi ha avuto questo inizio traumatico. È composto da 8 realtà, singoli artisti o comunque anche collettivi proprio di artisti, ad esempio Pindoc o Curva Minore sono 2 compagnie che all'interno hanno diversi artisti, una ventina uno e una trentina l'altro. Ci vedevi così con una compagnia, siamo io e Manuela, e poi abbiamo sono gli attori che partecipano ai spettacoli, ma anche alcuni organizzatori, altri artisti di diverse discipline, insomma. E poi c'è Simona Malato invece, che ad esempio è un'attrice, è una singola. Dario Muratore è entrato come singolo, adesso ha il suo collettivo che Attrazioni Residue, quindi è un organismo vivo, è in continua trasformazione. Ci siamo costituiti ed è stato questo uno dei primi atti che abbiamo fatto, perché a differenza di tutte le esperienze che avevamo avuto ogni singolo artista o i vari collettivi che stanno all'interno di Genia, con le realtà create nel passato, le occupazioni dei teatri, eccetera, eccetera, volevamo sancire un accordo e un'unione che in qualche modo mettesse come primo step la presa di responsabilità rispetto all'unione che facevamo su dei principi fondamentali che condividevamo. Su quello abbiamo fatto il nostro statuto e su quello ci siamo costituiti. Passiamo al festival, come nasce? Il festival nasce perché il 2020, lo stato pandemico appunto, noi per conoscersi in fondo chi eravamo, perché molti di noi si erano sfiorati, odorati negli anni passati, ma mai avevano collaborato a produzioni o alla creazione di eventi e manifestazioni, facevamo delle audizioni. Cioè un artista aveva un giorno a settimana in cui si raccontava agli altri artisti del collettivo. In una di queste audizioni, io e un altro artista purtroppo morto a causa Covid, che è Lelio Giannetto, uno dei fondatori appunto di Genia, abbiamo espresso il desiderio di fare come primo atto un festival, ma la pandemia ce lo proibiva. Noi lo fecimo lo stesso all'aperto, con le mascherine, ed era costituito da una serie di impegni laboratoriali, con gli stessi artisti di Genia, perché allora i viaggi erano appunto interdetti. Lo facciamo nella periferia sud di Palermo, in spiaggia, nelle grandi piazze, nella periferia più lontana, proprio perché lì la pressione dei controlli era anche più leggera, malgrado noi rispettassimo esattamente quello che veniva prescritto. Questo è stato il primo anno. Dopo il primo anno abbiamo detto rifacciamolo. Sì, ma facciamolo bisogno altri artisti, e l'abbiamo rifatto al 2021. Lo abbiamo spostato in un periodo diverso, l'abbiamo messo in autunno. Il luogo è rimasto lo stesso perché è un luogo che abbiamo sentito fin da subito nostro e in cui abbiamo sentito tra le nostre necessità e le necessità del territorio si univano, e da questa unione è nato il concept del festival che viaggerà fino al 2024 perché è entrato nel triennio del FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Un'edizione enorme, cioè pachidermica, perché oltre appunto agli appuntamenti dei di spettacolo, di programma dal 26 ottobre al 6 novembre con pubblico pagante eccetera eccetera, c'è una sezione del festival chiamata Inondazioni. Inondazioni è tutta la programmazione della formazione che abbiamo imposto a titolo gratuito per tutti i partecipanti e che ospita in residenza una gran parte degli artisti che poi intervengono con i loro spettacoli dentro la programmazione di Prima Onda. Quindi abbiamo una grande sezione che dura un mese e 20 giorni di formazione con l'Università di Palermo, con le vie dei tesori, tutti i vari partner settimanali delle culture, eccetera, eccetera, il Centro Padre Nostro, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la programmazione invece dal 26 ottobre al 6 di novembre. Quindi all'interno di questi due macro progetti che camminano insieme e in cui appunto uno si chiama Inondazioni e l'altro si chiama Prima Onda, hanno un fattore basico comune, cioè condividono lo stesso territorio e la stessa comunità che ospita sia l'uno che l'altro, cioè quella dei quartieri di Romagnolo, Sette Cannoni, Acque dei Cossari, Brancaccio, La Bandita. Nel complesso quanti sono gli eventi in programma? 28. 8, che con alcune doppie recite, perché ci sono alcuni spettacoli che hanno vinte posti a sedere per una questione non soltanto artistica ma anche di capienza delle location che noi stiamo utilizzando, perché sono delle location che non sono teatri, sono luoghi che stanno cercando di ospitare anche il teatro, la danza e la musica concertistica. Quindi sono 28 le presenze, poi saranno 32 recite ufficialmente, più le varie residenze che vanno dai 4 giorni, come quella di Babilonia Teatri, a quella di una settimana di Claudia Castellucci con Esercitazione di Chimica Palermo, o come quella di una settimana di Teatro dei Venti di Modena, capitanata da Stefano Te. Poi abbiamo anche dei progetti che in realtà sono come dei lunghi attraversamenti. Ad esempio il collettivo Dom sta qui 10 giorni. È un progetto che noi svilupperemo con loro in 3 anni. In questi 10 giorni del primo anno, collettivo Dom di Leonardo De Logu, lui da solo si perderà per le strade di Palermo cercando una drammaturgia urbana da poi raccontare a un gruppo di persone che rifaranno il suo percorso alla fine dei 10 giorni di residenza. Quindi abbiamo una parte delle recite che è numerabile, possiamo definirla, ma poi abbiamo tutte queste attività che in realtà rompono la dinamica dell'evento, perché hanno tempi che non sono assimilabili a un evento teatrale o della danza, a uno spettacolo finito. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti internet? Trovate la pagina Geniala Bart Palermo su Facebook ma anche su Instagram. Poi ci trovate sul sito che è www.genialabart.eu e lì trovate la biglietteria, trovate gli appuntamenti, trovate le schede di approfondimento degli artisti e anche qualche curiosità dei dettagli prettamente artistici e di creatività proprio dell'artista. Terza edizione del Prima Onda Festa a Palermo dal 26 ottobre al 6 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sabino Civilleri del collettivo Genia che organizza il festival. A presto! Grazie, a presto. Ciao Federico. Siamo all'agenda per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti. Andiamo subito a vedere le cose dal vivo in diretta, insomma, all'interno della città di Roma, perché ci sono un po' di appuntamenti da ricordare. Primo fra tutti è come continua Roma Europa Festival, la settimana intensa. Abbiamo un appuntamento, un talk e poi uno spettacolo il 2 novembre dalle 19 in poi, Riding on a Cloud, con il regista di Beirut, Rabbi Mrohe, che tra teatro, performance e arti visive, insomma, cerca di mettere insieme la relazione tra documenti privati e realtà. Il focus è sulla situazione economica e sociale del Libano, è molto interessante, sarà alla Maxi, Museo Nazionale delle Arti, del XXI secolo, il 2 e il 3 novembre, quindi Riding on the Cloud, Rabbi Mrohe, che è appunto, ci porterà all'interno della situazione libanese. Ma dal 3 al 6, al Teatro Argentina, Roma Europa Festival presenta uno degli appuntamenti probabilmente più interessanti dell'anno, che è il ritorno a Roma per nazionale di Alexander Zeldin, di cui avevamo ammirato l'OV lo scorso anno, questo lavoro di teatro a contatto con la realtà, l'ultimo capitolo della trilogia dedicata all'intimità in tempi di crisi, Faith, Hope and Charity, che ci porta in un centro comunitario per costruire un'altra esperienza teatrale e per guardare così il cuore di questi tempi incerti. Insomma, una storia quindi che prende vita all'interno di un centro di comunità e così con molta delicatezza ma anche ironia e a tutti gli effetti anche violenza, l'artista inglese insomma ci porta all'interno del tempo di crisi in cui stiamo vivendo i rapporti umani e l'esistenza umana in genere. Quindi da non perdere, Alexander Zeldin al Teatro Argentina dal 3 al 6 di novembre. Poi sempre nell'ambito di Roma Europa Festival per Digital Life continua il lavoro e la scelta di Ilaria Mancia, che ha curato appunto Dancing Days di quest'anno. Il 4 e 5 novembre saremo al Teatro Quarticciolo con Tripofobia, José Pascual, Ivona, Pablo Girolami, che è la compagnia appunto di Pablo Girolami, una sorta di di alter ego e presenta due pièce differenti, appunto. Quindi si tratta di tripofobia, appunto, questo affondo nel corpo, nelle geometrie, nell'irregolarità, mentre invece José Pascual è la storia di un 46enne ambiguo, cocco di mamma, forse lunatico, definitivamente disturbato. Un punto di partenza è appunto una lettera scritta a una donna. Questo è il lavoro che andremo a vedere per Dancing Days al Teatro Quatticciolo per Roberto Boteschi al 4 e 5 novembre, ma non è così che conclude la settimana, bensì con un altro lavoro firmato Digital Life, e appunto sarà al Teatro Vascello il 5 e il 6, sabato e domenica. We were our wheels with pride and slap your streets with color. Così è il titolo di questo lavoro di Robin Orbin e del gruppo Moving Into Dance, che sarà appunto al Teatro Vascello, più nazionale, 5 e 6 di novembre. Robin Orbin, attivista della danza sudafricana fin dagli anni 90, che col suo sguardo critico, insomma, porta a evidenziare le differenze all'interno del paese sudafricano, soprattutto per la matrice coloniale che molto tempo fa, insomma, ha categorizzato così precisamente il territorio sudafricano. 5 di novembre, prima nazionale per Robin Orbin al Teatro Vascello per Roma Europa Festival. Poi all'interno del Festival Chapiteau, che è a Villa Bonelli, il Circo del Teatro e il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti, che appunto porta all'interno del parco di Villa Bonelli con un po' di appuntamenti, e questa settimana si andrà a vedere il 3 novembre Sono Tutti Mio Cugino con Dario Aggioli, che cura anche la regia, in scena con Enrico Lombardi, per cercare di capire cosa vorremmo recuperare del passato. C'è un rapporto con il pubblico molto definito: sei tra il pubblico potrà ricevere una telefonata da un amico che vorresti tanto risentire. Questo è un po' il cuore del lavoro, che proseguirò la rassegna con il 4 novembre con Antigone, la compagnia Barletti Vas, che da Berlino fino alla periferia romana porta questo lavoro per interrogarsi sul conflitto tra potere e responsabilità. Il 5 invece Macbeth Banquet, il Teatro Invito di Lecco, che porta questo racconto sanguinario di Shakespeare raccontato da un cuoco mentre cucina, quindi Macbeth Banquet. E il 6 novembre invece andremo a vedere il lavoro di Nano Egidio, che torna a Roma domenica. Conto Nano Egidio contro il male di vivere spesso in contrario, una citazione montaliana per Marco Ceccotti, Francesco Picciotti, Simona Oppedisano, con i loro pupazzi, la scrittura comica, insomma, e la loro ironia portano all'interno delle vicende di questo Nano Egidio, che insomma da anni ormai ci fa sorridere, ci parla del nostro mondo. Poi, per quanto riguarda la Fortezza Est, andremo a vedere Sembra Amleto, una riscrittura del capolavoro shakespeariano per nuove fragilità e nuovi drammi, la regia di Ivano Picciallo, e in scena ci sarà Francesco Zaccaro, che ne è anche autore. C'è una serie, una tomba, una montagnola di terra, effettivamente un testo dove tutto sta scritto, appunto, l'Amleto. Cosa ci vorrà dire ancora di nuovo questo Amleto? Lo andremo a scoprire nella farsa, nel grottesco, nel clownesco, nella rappresentazione, appunto, che Francesco Zaccaro porta in scena sul palco della Fortezza Est dal 3 al 5 di novembre. Poi ancora alla Sala Umberto ritorna a Roma Alessandro Gassman con questa riduzione teatrale di Qualcuno volò sul nido del cuculo, dei Wasserman, appunto, da cui è stato tratto il famoso film con Jack Nicholson, insomma, che tutti conoscono. È un tratto da un romanzo, insomma, pubblicato nel 1962, dopo che Ken Casey aveva lavorato come volontario in un ospedale psichiatrico californiano. Sarà in scena sul palco della Sala Umberto dal 3 al 13 di novembre. Fazio Rossellini per Silvia Gallerano, drammaturga e regista di questo Svelarsi, che prodotto da PAV nell'ambito di Fabula Mundi Playwriting Europe, porta questo testo che si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne, cis, trans e non binario, tutte quelle che si sentono e definiscono donne. Non si tratta solo di creare uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma anche di permettere a chi guarda di sentire il proprio corpo, di suonare più profondamente con quello che vede nudo in scena. Questo è il dialogo che Silvia Gallerano, con molte attrici del resto, cerca con le proprie spettatrici dal 3 al 5 novembre allo spazio Rossellini di Roma, con Svelarsi appunto. Dal 2 novembre la compagnia di Filippo, insomma, la compagnia che resta di Filippo, torna a Roma con Ditegli sempre di sì, appunto, del grande Edoardo De Filippo, padre di Luca, che appunto la compagnia portò avanti fino alla morte, e la regia in questo caso di Roberto Andò. Dal 2 al 13 novembre questo spettacolo se ne va in scena con la sua, insomma, vivacità e il suo colore di un pazzo metodico con la maniera della perfezione. Se ne va in scena al Teatro Ambra Iovinelli, 2-13 di novembre. Al Teatro Torbella Monaca, dal 1 al 3 novembre, andremo a vedere Agamennone di Giannis Ritsos, il poeta greco, con la regia di Alessandro Machia, che è appunto Alessandro Machia, che in realtà è staccato, Alessandro di nome Machia di cognome, e non appunto una parola che sembra greca, ma non lo è. Agamennone, re di Micene, despota omerico, insomma, che conosciamo per la spedizione contro Troia, è un uomo vecchio che è giunto alla fine della lunga ed estenuante guerra e ha un solo ultimo atto di valore, una confessione della propria versione della storia alla moglie Clitennestra. Quindi il momento in cui Agamennone, insomma, fa un po' il suo, è a casa, racconta alla moglie Clitennestra poi in fondo com'era davvero andata. È interessante questo lavoro, appunto, Alessandro Machia, che porta Agamennone nel Teatro Torbella Monaca dal 1 al 3 di novembre. Sul palco del Teatro Quirino arriva Franco Branciaroli con Shylock, ovvero Il mercante di Venezia, capolavoro shakespeariano ambientato appunto a Venezia, che affonda nella tradizione ebraica, nell'economia e nel rapporto tra Oriente e Occidente. Dal 1 al 6 di novembre, appunto, Franco Branciaroli al Teatro Quirino. Una compagnia che abbiamo spesso seguito, dal 2 novembre fino al 20, se ne va in scena, Ludovica Dauria e Alberto Fumagalli, che danno vita ancora una volta alla difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, la storia di un figlio di una famiglia di campagna molto rurale, molto chiusa evidentemente, che però in bando al proprio fisico non probabilmente adeguato a una carriera di danzatore, vuole fare la danza e vuole in qualche modo dare sfogo al suo essere più intimo, alla sua essenza interiore. Dal 2 al 20 novembre al Teatro Cometa Off, per la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza. E andiamo a vedere anche cosa c'è questa settimana per Trend, la rassegna di drammaturgia britannica del Teatro Belli, curata da Rodolfo Di Gianmarco, e che anche questa settimana presenta uno spettacolo. Si tratta di Pops di Charlie Josephine, con la regia di Massimo Di Michele, in scena con Eleonora Bernazza, dicevo, dal 3 al 6 di novembre negli spazi del Teatro Belli. Pops è la storia di un padre e una figlia, un incontro, uno scontro tra due visioni della vita, un continuo grido di aiuto inascoltato. È un viaggio nella mente di queste due persone che provano a superare una grande perdita, ma rimangono bloccate in una condizione di sofferenza. 4-6 novembre, Pops al Teatro Belli. Ultimissimo appuntamento di cui è il caso di parlare, è forse un po' lo spettacolo della settimana, anzi due in realtà, mi chiedo perdono, che ho dimenticato di Ritorno a Roma, nell'ambito di Orbita e la rassegna di danza, però questa volta con la rassegna per piccoli, danza per nuove generazioni, che si chiama Supernova, curata da Federica Migliotti, al Teatro Palladium il 3 novembre alle ore 20, c'è anche alle 10.30 per bambini, per un pubblico a partire dai 6 anni. Va in scena Romanzo d'infanzia della compagnia Abbondanza Bertoni, spettacolo cult di una delle più originali compagnie di danza contemporanea, e uno spettacolo davvero di tanti anni fa che torna in scena, e chi non l'ha visto assolutamente, ecco, lo spettacolo del 97, è il caso assolutamente di fare un salto al Teatro Palladium, spettacolo delicatissimo sull'infanzia, questo momento splendente della vita, eppure grezzo, in cui ogni cosa è luce, ma ogni cosa può anche coprire la luce. Questo è il senso, diciamo, attorno allo spettacolo. E poi, infine, Teatro India, 3-6 novembre, per il sotterraneo che porta a Roma, finalmente, L'angelo della storia, spettacolo molto, molto importante sul senso appunto della storia e sul senso degli eventi storici a contatto con la contemporaneità, invece diluita, liquida, frammentata, talvolta contraddittoria, a partire dalla descrizione che Walter Benjamin dà del quadro di Paul Klee, appunto L'angelo della storia, che si riversa, guarda verso il futuro, alle ali verso il futuro, eppure osserva verso il passato, osserva la parte alle sue spalle. Questo assolutamente da non perdere al Teatro India di Roma dal 3 al 6 di novembre, L'angelo della storia del sotterraneo. E con questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.